su posto irai, al cuore rosso lei stai, di te noce cantaremo celebrando su cuore, con allegria stendo il sole, con quel che va con la flamma. Yeah.